Solo innanzitutto due parole per, prima di entrare nell'argomento, due parole solo per fare presente l'importanza di Rufino di Concordia nella letteratura cristiana antica, nella spiritualità antica, nonostante la posizione subalterna di cui purtroppo ha sempre goduto, fosse stato anche ingiustamente condannato, anche ad opera di personaggi più cattivi di lui forse, e infatti non trova, direi, il rilievo che ha, anche in conseguenza dello scarso rilievo che fino a pochi decenni fa ha goduto la traduzione in quanto tale, e proprio perché non si è visto nella traduzione il significato, più un significato profondo di veicolo culturale. Di questa scarso interesse per la traduzione ha sofferto di conseguenza anche Rufino, che è stato soprattutto traduttore. E se però soltanto tenessimo conto del fatto che nel Medioevo le traduzioni di Rufino hanno circolato e sono state presenti per secoli, basterebbe questo per far capire come si può essere anche non scrittori originali, tra virgolette, come si usa dire, ma scrittori di grandissima importanza culturale. E direi che la riscoperta di Rufino è piuttosto recente, e vorrei ricordare anche alcuni convegni che si sono succeduti proprio a Portogruaro recentemente, che sono destinati proprio a ridare concretezza alla figura di Rufino, di solito considerata poco di più che uno sbiadito, un pallido traduttore, una pallida parete intermedia tra il greco e il latino. Questo solo due. Vorrei che questo mio contributo servisse a dare, a portare qualche cosa ancora alla rivalutazione, diciamo così, della funzione, se non della grande personalità di Rufino. E ho detto traduzione di Rufino dai padri cappadoci, siccome ha tradotto dai cappadoci una serie di omelie, 9 da Gregorio Nazianzeno, 8 da Rufino, da Basilio, sulle traduzioni da Gregorio Nazianzeno mi sono soffermato già a suo tempo, ci tornerò perché è necessario con uno sguardo d'insieme, ma non voglio appunto ripetermi. Mi fermerò oggi soprattutto su quelle da Basilio, che sono state finora meno considerate. E il titolo della mia relazione è Motivi di una scelta. Appunto, forse più che i motivi di una scelta vorrei vedere dello scopo di una scelta in questo senso, perché è proprio qui il centro nodale dell'attività di Rufino, perché ha tradotto e qual è appunto lo scopo. L'opera di Rufino è stata oggetto di rinnovato interesse ormai proprio recentemente, come vi dicevo, almeno in modo più ampio e in concomitanza e in conseguenza dell'interesse per la traduzione in quanto tale. È verissimile, cioè, che al risveglio dell'interesse per Rufino abbia contribuito anche l'attenzione dedicata alla traduzione considerata teoricamente nei suoi presupposti. Che cosa è la traduzione? Prima ancora che nella pratica, alcuni degli studiosi che si sono occupati di Rufino, ad esempio, recentemente sia Chiesa, sia Rapallo, sia altri, hanno fatto riferimento proprio al problema della traduzione in senso teorico. E per quanto riguarda Rufino, in un primo momento l'interesse è stato dedicato soprattutto alle traduzioni da origine e ancora in primo luogo a quella del De Principis, in un secondo luogo, a un secondo livello, anche a quella del commento all'Epistola ai Romani, naturalmente, ma soprattutto il De Principis, perché essa serviva, la traduzione di Rufino, serviva innanzitutto per un motivo molto concreto, considerato in un primo momento predominante, cioè la ricostruzione della genuina dottrina originiana. Solo in tempi più vicini a noi si è voluto vedere in che modo Rufino aveva modificato il testo greco, per quali finalità, perché precisare quali fossero queste finalità era apparso di importanza secondaria rispetto alla ricostruzione dell'originale greco fino ad ora. Insomma, la critica fino a tutta la prima metà del Novecento si è occupata di Rufino solo come di uno strumento. Rufino è servito solo per ridarci quello che non c'era, cioè origine. In sostanza, gli studiosi moderni, fino a poco tempo fa, che quelli che hanno studiato la traduzione del De Principis hanno ripreso per molti aspetti la problematica che era sorta allora quando apparve alla fine del IV secolo la traduzione di Rufino stesso e sorse la polemica tra di lui e Gerolamo, cioè qual era stato il grado di fedeltà all'originale che quella traduzione conteneva e se essa debba essere considerata fede degna e fino a che punto. E era, questo il, la, era questa la problematica affrontata perfino da Bardi intorno al 1930. Ecco, discussione tra lui e Ciao circa la validità di Rufino, ma in sostanza, appunto, ripeto, Rufino considerato strumentalmente per ricostruire origine. Ma il problema di fondo è, a mio parere, questo. Dal momento che Rufino è stato autore quasi solamente di traduzioni, quasi solamente, dobbiamo escludere in sostanza allora la formulazione esplicita, sottolineo esplicita, di un suo pensiero personale. Se tale pensiero esiste, e io credo che esista perché non è necessario essere teologi o fare una grande costruzione di carattere dogmatico, se tale pensiero esiste deve essere ricavato o dalle inserzioni che gli ha posto nel testo della traduzione e vedere perché le ha poste, oppure in base a vedere anche perché ha modificato o ha addirittura tolto quello che possiamo vedere nell'originale greco. Il problema, ancora una volta, è stato visto più urgente per quello che riguarda le opere di origine, data la posizione che aveva assunto Origene, posizione così contraddittoria nel IV secolo, ammirato per tanti aspetti, per la sua dottrina, per la sua cultura, per l'interpretazione spirituale, però invece in sospetto di eresia per altri motivi, in quanto soprattutto la sua certe interpretazioni origeniane o non erano state ben comprese. C'è Crusel che difende a spada tratta e anche Simonetti difende a spada tratta Origene e danno di solito la colpa a Rufino e ai contemporanei che non hanno capito, che non hanno capito Origene. Però ecco che il problema non deve risolversi solo nel rapporto tra Rufino e Origene, cioè nei confronti di un autore sospetto, pericoloso, anche se estremamente interessante. Perché Rufino si è rivolto anche ai cappadoci, i quali quindi non presentano la stessa problematica che poteva presentare Origene. L'autorità dottrinale dei cappadoci era indiscussa, anche e per loro non c'erano assolutamente problemi di ortodossia, anzi Rufino stesso riconosce, come era riconosciuto universalmente ai suoi tempi, che l'insegnamento di Gregorio di Nazianzo era tale da costituire il fondamento della dottrina cristiana, e proprio pochi anni prima che Rufino traducesse, lo stesso imperatore Teodosio aveva decretato che la fede ortodossa era quella insegnata da Damaso a Roma, Pietro ad Alessandria, Gregorio di Nazianzo a Costantinopoli. Quindi non c'era il problema che poteva sorgere per Origene. Ma appunto noi non dobbiamo vedere Rufino solo in rapporto a Origene e domandarci quanto sia fede degno, dobbiamo vedere anche Rufino nel complesso della sua attività, e siccome la sua attività è stata veramente gigantesca, la sua attività di divulgatore, ma di divulgatore nel senso più alto della parola, dovremmo vedere un po' tutto, e uno studio d'insieme su tutto Rufino manca, perché appunto bisogna leggere molto e traduzioni, uno studio su una sola traduzione richiederebbe moltissimo tempo, perché si tratta di vagliare le peculiarità dell'uomo, le peculiarità del suo lavoro. Quindi io mi restringo solo alle versioni, dalle traduzioni, alle versioni dalle omelie dei cappadoci, e soltanto do alcuni cenni, faccio alcuni sondaggi, perché naturalmente non avrei tempo in questo contesto. Quando Rufino si accinse a tradurre una scelta delle omelie di Basilio, ho detto che appunto voglio occuparmi prima di Basilio, tra il 398 e il 400, il vescovo di Cesarea era morto da circa 20 anni e Gregorio di Nazianzo da meno di 10. Data la lenta diffusione di certe opere dall'Oriente greco all'Occidente latino, non era facile che un letterato di lingua latina le avesse a sua disposizione tutte e poco tempo dopo la loro pubblicazione nell'ambiente di lingua greca. In quel tempo Gerolamo aveva tradotto solo alcune omelie di Origene e il De Spiritu Santo di Didimo. Eppure Gerolamo era anche stato alcuni anni a Costantinopoli, tra l'altro presso Gregorio Nazianzeno, e quindi conosceva l'ambiente letterario greco, oltre che, almeno così da intendere, la lingua greca meglio di Rufino, così almeno dice Gerolamo. Rufino è molto più modesto a questo riguardo, più riservato. Didimo sembrava essere in Italia più noto di altri, in Italia volevo dire nell'Occidente latino, insomma, più noto di altri insieme ad Atanasio. Ambrogio, che scrisse le sue opere dogmatiche tra il 378 e il 381, si serve soprattutto di Atanasio e di Didimo, l'attività letteraria dei quali è anteriore di circa 30 anni a quella di Ambrogio stesso. Quando Ambrogio si volge a Basilio, si dedica quasi esclusivamente alle omerie sull'Esamerone. Bisognerebbe un poco tenere presente la diffusione di alcune opere dall'Oriente all'Occidente, perché non è tutto omogeneo naturalmente, ma questo ormai non lo esula in parte dal lavoro di adesso. Per quanto riguarda la conoscenza in ambiente latino delle opere di Basilio, dunque, i trattati dogmatici del Vescovo di Cesarea sostanzialmente non ebbero nessuna diffusione in Occidente. Il Contra Eunomium risulta pressoché sconosciuto, il De Spiritu Santo almeno fino ai secoli successivi, poco più noto, insomma. Ambrogio stesso cita, cioè traduce qualche cosa dal De Spiritu Santo, nella sua opera appunto sullo Spirito Santo, ma in modo frammentario. Ecco, però erano veramente di carattere dogmatico gli intenti e gli interessi di Rufino, o almeno erano solo dogmatici, potevano esserlo quando si rivolgeva a Origene, ma non necessariamente lo erano quando si rivolgeva ai Cappadoci. Poteva appunto vedere nei Cappadoci, anzi verosimilmente ha visto, qualche cosa di diverso, pur sempre ricco di spiritualità cristiana, ma una teologia unita a qualcos'altro. Ecco, forse questo andrebbe bene tenerlo presente proprio nella lettura di Rufino. E, in fondo, l'atteggiamento di Rufino nei confronti delle grandi costruzioni teologiche era non diverso da quello che in fondo che noi possiamo vedere anche nel suo contemporaneo Girolamo, molto interessato all'esegesi biblica, poco interessato però alle costruzioni teologiche. Nell'ambito della dottrina trinitaria Girolamo non porta niente di nuovo, anzi conosciamo una sua epistola al vescovo a Damaso, nella quale domanda a Damaso la retta interpretazione della differenza tra usia e ipostasi, quindi demanda a Damaso l'interpretazione della fede ortodossa. Verosimilmente Rufino era in una condizione analoga, cioè si accettava da un punto di vista dell'ortodossia quello che suggeriva Damaso, che però era morto quando Rufino traduceva, o comunque il vescovo di Roma, e personalmente però approfondiva e indirizzava il suo lavoro verso altre vie, verso altre strade. E per quello che riguarda appunto questa introduzione e questa traduzione di Rufino da Basilio, è interessante allora tenere conto il fatto che Rufino non vuole prendere in considerazione le opere teologiche di Basilio. Sappiamo, d'altra parte, non ne parlo ora, che di Basilio ha tradotto le regole, e questo già significa qual era la sua scelta, quindi i motivi di una scelta, insomma, lo scopo della scelta, cioè quindi di carattere ascetico e spirituale. Vediamo allora se queste stesse omelie basiliane potevano servire a Rufino più o meno a questo scopo. Vediamo. Interessante è la introduzione, tutte queste traduzioni di Rufino hanno delle introduzioni particolarmente interessanti, ci informano dei suoi scopi, dei suoi intenti, e anche talvolta alla fine delle conclusioni, per esempio della traduzione dell'Epistola ai Romani, del commento di Origene all'Epistola ai Romani, ci sono particolari interessanti. Dunque, l'introduzione di Rufino a questa sua traduzione dalle omelie basiliane è rivolta ad Aproniano, un nobile di Roma, e così come a lui è rivolta. A lui è dedicata la traduzione da Gregorio di Nazianzo pochissimi anni dopo. Questo Aproniano dunque era un nobile che aveva sposato Avita, la quale era legata a Melania, quindi un personaggio di grande rilievo nella spiritualità romana dell'epoca, e quindi cominciamo un poco a costruire anche questo ambiente. Aproniano non è molto conosciuto come uomo, semmai più a vita, alla quale anche scrisse anche Gerolamo, semmai più noto Melania che non Aproniano, ma insomma, Rufino, rivolgendosi dunque ad Aproniano, dedica a lui elogi di prammatica, ma ci dice anche qualche cosa di più interessante. Sceglie dunque di tradurre 8 omelie di Basilio e le caratterizza con delle annotazioni interessanti anche di carattere stilistico e letterario, perché naturalmente si tratta di traduzioni che non sono fatte così alla buona, non fatte solo, come dire, con intenti di portare da una lingua all'altra un testo, ma traduzioni che hanno le loro esigenze letterarie, perché Rufino è ben convinto che la retorica è uno strumento fondamentale di cultura, e quindi non è affatto vero che l'ascesi o la spiritualità debba mettere da parte certe esigenze di carattere letterario. Ora, Rufino che cosa dice? Quindi che le omelie di Basilio sono particolarmente piacevoli a leggersi, e Basilio stesso è un personaggio che può essere messo sullo stesso piano di un grande cristiano dell'Occidente, cioè a Cipriano. Ora, se Cipriano aveva, da un certo punto di vista, era stato più grande di Rufino perché aveva goduto della palma del martirio, di Basilio perché aveva goduto della palma del martirio, Basilio però aveva ottenuto pur sempre la seconda palma confessionis, è arrivato secondo nella palma della confessione cristiana, lottando giorno per giorno contro i vizi e i difetti umani. Il discorso di Basilio, quindi, osserva Rufino, è soprattutto morale ed edificante. Est ergo sermo eius magis moralis. E il suo discorso quindi è soprattutto morale, traduco rapidamente o do una parafrasi, tale che può conformare, educare gli animi alla ad bonam vitam, a un comportamento onesto, e può anche laboribus relevare, dare un certo sollievo di carattere morale, sollievo dai loro affanni, dalle loro angosce, travagli della vita. Quindi la morale ha appunto questo significato. Il suo parlare, il parlare di Basilio, è reso ancora più gradevole dalla sua semplicità, che permette anche alle donne religiose di avvicinarsi ad esso, come alla mirabile moglie di Aproniano, figlia spirituale di Rufino, cioè appunto Avita, come ho detto poco fa. E quindi dobbiamo tenere presente questo ambiente di Roma, che conosciamo anche da Gerolamo, in fondo, in ambienti di spirituali, di asceti, di cui facevano parte anche molte donne dell'aristocrazia romana, comunque donne di grande rilievo sul piano culturale, sul piano sociale. Rufino quindi si rivolge a loro, ed ecco, già si conforma un poco in questo modo gli intenti del suo scrivere, del suo tradurre. Finiamo di considerare un attimo l'introduzione. Dice ancora Rufino: voglio che tu sappia, Aproniano, che lo stile di Basilio, nello splendore del suo parlare greco, nella grazia del dire, è molto vicino a quello del nostro beato Cipriano, e il fiume della sua eloquenza, limpidissimo, si muove con onde lenibus et satis placidis, con onde placide e tranquille. Quindi un parlare solenne, ma moderato, ma calmo, ma ameno, mite. Un flumen, quindi, che è questo che si può cogliere in Basilio. Lo stesso flumen che in fondo si coglie anche in Cipriano. Questo lo sottintende Rufino, ma abbiamo il coevo giudizio di Gerolamo, che nell'epistola 58 definisce appunto lo stile di Cipriano, dice che scorre instar fontis purissimi dulcis et placidus, scorre dolce e placido come una fonte di acqua purissima, quindi è più o meno la medesima metafora che accomuna, senza che lo sapessero forse, Rufino a Gerolamo nel giudizio su Cipriano. Dunque, quali sono allora queste omelie che Rufino traduce? Sono in tutto 8, caratterizzate in vario modo. Ad esempio, una di queste omelie subito balza gli occhi perché non è un'omelia, ma è un'epistola. Ha inserito quindi Rufino nella sua collezione, nel suo contesto omiletico, ha inserito un'epistola di Basilio, la numero 46 ad Virginem Lapsam, dedicata a una sorella che aveva rinunciato ai propri voti. Ma prima di affrontare questa epistola, giù da vicino, direi innanzitutto che l'andare a scegliere una epistola da inserire in un contesto di omelie è, per certi aspetti, certo strano, perché viola il genere letterario in un certo senso, e viene fatto quindi a ragion veduta. Ci doveva essere un motivo per cui si andava a prendere un testo diverso, di genere letterario diverso. E d'altra parte, questa scelta non era del tutto arbitraria, evidentemente Rufino non faceva le cose in modo cervellotico, perché basta considerare l'epistolario di Basilio per capire come in fondo l'epistolario del vescovo di Cesarea, come in fondo anche di Gregorio di Nazianzo, o gli epistolari coevi dei pagani, non sono epistolari di carattere esclusivamente personale, ma soprattutto didattico, si tratta di epistolari di, come dire, di contenuto, cioè di epistolari che sono diversi da quello che noi immaginiamo col termine di epistolario, ma si tratta di un complesso di lettere di istruzione soprattutto. Quindi questa epistola ad Virginem Lapsam di Basilio poteva avere un valore emblematico, istruttivo, e perciò poteva essere considerata, diciamo così, fatte le debite differenze, come qualche cosa di affine a un'omelia. Si trattava di insegnare, di spiegare, servendosi di un'epistola questa volta invece che di un'omelia. E allora, questa è già dunque una novità in Rufino, l'andare a scegliere una epistola invece che un'omelia. E come viene presentata, d'altra parte, questa omelia? In un modo particolarmente interessante. Si dice di solito che Rufino o traduce in modo pedissequo oppure interviene in modo arbitrario. Di solito è accusato sia da destra che da sinistra Rufino a questo riguardo. Non interessa questo. Ci sono dei momenti in cui Rufino traduce in modo molto fedele e ci sono degli altri in cui modifica, ma per motivi che vanno appunto colti, che vanno precisati. Ora, in questa traduzione latina dalla Epistola 46 ad Virginem Lapsam c'è una modifica particolarmente evidente che dobbiamo cercare di spiegarci, e forse si può presentare una interpretazione plausibile. E in sostanza Rufino omette completamente la parte finale della epistola basiliana e si arresta, diciamo, arrivato a tre quarti, se posso usare questa terminologia. Vale a dire quando Basilio prospettava alla Vergine che aveva rinunciato ai suoi voti, prospettava il giudizio universale. Poi Basilio, da pastore di anime qual era molto equilibrato, proseguiva nella parte finale dell'epistola facendo presente alla Vergine che era caduta l'opportunità del pentimento e la misericordia di Dio che era aperta a tutti. Rufino invece si interrompe, lì a questo punto, non parla del pentimento, non parla della misericordia di Dio, ma fa vedere solamente il giudizio finale che attende tutti e in particolar modo i peccatori. Questo è forse un atteggiamento più ascetico, più rigoroso, più duro da parte di Rufino, o insieme è intervenuto forse anche un intento di carattere letterario, perché così si conclude meglio, più efficace la descrizione, con con la citazione di Daniele e la grandiosa visione del giudizio finale. E sono probabilmente tutte e due le cose insieme, elaborazione letteraria e maggiore pathos drammatico, maggiore insistenza di carattere ascetico. Nei particolari, come ho detto, non posso entrare perché non ho tempo. Altre omelie, vediamo quali suggerimenti ci possono dare. Tra le omelie apparentemente meno interessanti è la prima delle edizioni moderne, che è dedicato al primo Salmo. La omelia sul primo Salmo appare nel complesso abbastanza modesta, non sembra che abbia da presentare niente di particolare, e Rufino è a una prima lettura abbastanza fedele, ma modifica, e vediamo, queste modifiche sono interessanti perché ora a questo punto noi cogliamo un altro punto dell'attività di Rufino, e cioè la diversità dell'uditorio a cui egli si rivolgeva. Basilio teneva un'omelia, cioè un discorso pronunciato al popolo di cristiani, al popolo nel quale non erano presenti solo fedeli, ma spesso, almeno così pensa Bernardì, che ha studiato la predicazione dei Cappadoci, erano presenti anche dei non cristiani oppure catecumeni soltanto, il resto i cristiani stessi spesso non erano ancora battezzati, come ben sappiamo. Ad ogni modo, il pubblico a cui si rivolge Basilio è senz'altro un pubblico molto più vasto, ed è il pubblico di tutti i giorni, quello davanti al quale comunque predica, perché si tratta di un'omelia. Rufino fa una traduzione, quindi non fa un'omelia, e così facendo per forza deve modificare il suo lavoro, perché modifica la destinazione. L'opera, infatti, non è più rivolta oralmente al popolo, ma è rivolta per iscritto a una ristretta cerchia di fedeli che è ben determinata. Questa è una cerchia di persone spirituali, di asceti, e quindi ha luogo uno spostamento di finalità che produce verisimilmente anche delle modifiche inconsce. Inconsce, delle modifiche non molto evidenti, ecco, questo non volevo dire inconsce, delle modifiche non evidenti a prima vista. Vediamo se si possono cogliere. Dunque, ecco, in sostanza una lettura attenta e un confronto tra i due testi ci fa notare che Rufino ha eliminato o molto ridotto gli elementi legati alla predicazione, alla vivacità della predicazione che si trovavano nel testo greco. La traduzione si è servita quindi di un'accentuazione retorica per conferire maggiore dignità letteraria al testo che intendeva diffondere in ambiente latino. Un esempio, Basilio, in questa omelia dedicata al primo Salmo, a un certo punto si diffonde a condannare le persone dissolute che lo ascoltavano, e verosimilmente lui le conosceva ad uno, perché ci sono nelle omelie di Basilio questi riferimenti molto concreti all'uomo che è davanti, alla donna che è dissoluta, al bambino che piange a questo punto, più o meno come nei sermoni di Agostino per certi aspetti, c'è questa vivacità in Basilio. Tutto questo logicamente in Rufino non c'è più, perché non ha senso. E deve parlare a un certo punto, Rufino deve tradurre il passo in cui Basilio parla della dissolutezza dei suoi ascoltatori, donne e uomini che si prostituiscono, e Rufino è molto, come dire, va con la mano molto più leggera a questo riguardo, taglia e non dice niente di particolare. Anzi, sostituisce certi aspetti che sono più crudi in Basilio con certi altri che sono più blandi, più smorzati e che sembrano anche un poco più generici. Non so, alla prostituzione degli uomini sostituisce la descrizione dei discorsi dissoluti che fanno i giovani tra di loro quando parlano delle loro prodezze amorose, e quindi sostituisce una cosa con l'altra, è molto più generico, insomma. È evidente dunque che certi particolari che potevano andar bene per il più vasto pubblico degli ascoltatori di Basilio diventano superflui o forse inopportuni in un'opera dedicata ad Aproniano e a Vita e al circolo di spirituali che stava intorno a loro. Così Basilio, molto concretamente, fa riferimento in certi punti alla pratica dell'usura che i cristiani ancora purtroppo usavano, e questa pratica, di questa non si parla invece in Rufino, perché c'è da sperare che Aproniano e Avita non l'applicassero nei confronti dei loro confratelli. Quindi è la destinazione diversa che probabilmente suggerisce queste modifiche. E un qualche altro passo, ma sarò molto breve. Bisogna fare attenzione anche a rifiutare determinati luoghi comuni, a dire il vero ormai appaiono completamente superati, che aveva un po' colpito la critica dei decenni passati, non solo nei confronti di Rufino, ma anche nei confronti della predicazione di Basilio. Per esempio Curton, che pure ha avuto i suoi meriti nel diffondere Basilio, però trova spesso che le omelie di Basilio sono prive di ogni elaborazione retorica, o quindi dice scritte di getto, che per uno scrittore cristiano è pressoché non solo antico, non solo cristiano, ma un po' in generale dell'antichità, è quasi un controsenso. Curton evidentemente non aveva sensibilità per l'elaborazione retorica, e invece, se non sbaglio, proprio nell'omelia Attende tibi ipsi, che è una delle più importanti, fa attenzione a te stesso, ricavata da l'interpretazione di una frase, di una sentenza del Deuteronomio, è una delle più importanti di Basilio, se non mi sbaglio l'ha studiata anche Antonio Quacquarelli, questa la struttura retorica dell'omelia basiliana. È un'omelia particolarmente importante perché il significato di fa attenzione a te stesso, attende tibi ipsi, aveva certo una sua precisa valenza nell'ambito del passo del Deuteronomio, ma poteva prestarsi anche a una rielaborazione di carattere spirituale, perché assomigliava molto da vicino alla famosa sentenza pagana del conosci te stesso. E in fondo questo è un atteggiamento che andrebbe più studiato, ma è tipico di Rufino. Cioè sa cogliere la spiritualità cristiana e contemporaneamente una certa spiritualità pagana, per esempio, quale si può vedere nelle sentenze di Sesto, il filosofo, per esempio. Quindi questo suo interesse non è che lo induca a mettere insieme così, senza discernimento materiale di provenienza diversa, ma è un interesse per un certo tipo di moralità ascetica che coglie sia in ambito pagano che in ambito cristiano. Quindi l'attende tibi ipsi del Deuteronomio gli sembra molto simile al conosci te stesso della sapienza pagana. Ma, ben inteso, Rufino, come già Basilio, si era comportato soprattutto da predicatore cristiano. E quindi sono soprattutto le esortazioni di carattere morale, di carattere cristiano, che sono presenti in questa omelia. O sempre a proposito dell'elaborazione retorica, essa è molto precisa, molto evidente anche in un'altra omelia che dovrebbe essere di contenuto esegetico, ma poi non è esegesi, cioè l'interpretazione di un passo del Vangelo, un passo di Luca circa l'episodio del ricco che aveva i cui campi avevano dato molto frutto e che progettava di ampliare i suoi granai proprio per poter mettere i suoi magazzini, per mettere da parte tutti i suoi, come dire, i prodotti del suo campo, poter godere della ricchezza che gli veniva, e pensava a una vecchiaia tranquilla, a una vecchiaia negli ozi, e quel giorno, quella notte stessa invece morì, punto. In questa omelia, che insomma si dice di carattere esegetico, però rientra soprattutto non c'è nulla di esegesi, perché è evidente il significato, quindi è un'omelia di carattere morale, anche in questa Basilio è stato particolarmente attento all'elaborazione retorica, e Rufino a sua volta è stato fedele nella traduzione per certi aspetti. I suoi interventi sono tali che ora non posso citare con precisione perché bisognerebbe avere il testo sotto gli occhi, sono tali che le modifiche non scardinano però la struttura retorica. Un esempio, se Basilio aveva distinto la sua omelia in narratio, divisio, demonstratio, confutatio e poi perorazio finale, così come richiedeva la retorica, Rufino mantiene questa divisione. I suoi interventi sono all'interno di queste sezioni e non sono quindi tali da scardinare la successione delle parti, delle partizioni retoriche, ma appunto la siffatta partizione è osservata e quindi Rufino stesso ne è cosciente che l'omelia ha una sua struttura. E allora io non ho altro tempo perché vorrei dire qualche cosa anche su Gregorio di Nazianzo, ma mi pare che si possano intanto individuare alcuni atteggiamenti di fondo in Rufino, interessi di carattere ascetico, spirituale e morale, che possono benissimo, possono benissimo stare insieme agli interessi dogmatici relativi alle traduzioni da origine. E questi interessi lo stringono alla comunità di Aproniano e di Avita. Per questa comunità scrive, traduce dal greco in latino alcune omelie di Basilio, e naturalmente la traduzione significa il passaggio da un genere letterario all'altro, il passaggio da una situazione concreta a un'altra, e sia quindi il nuovo genere letterario, che è quello diciamo della traduzione, si differenzia dal genere letterario precedente, che era quella dell'omelia, perché appunto Rufino traduce e non pronuncia lui l'omelia, e quindi deve adattare al nuovo ambiente quello che era stato pronunciato, detto, per un ambiente completamente diverso. Questa direi che in linea di massima è la conclusione che si può ricavare dalle traduzioni da Basilio. E, però, poche parole, dicevo, anche su Gregorio di Nazianzo, non intendo farla lunga perché sulla traduzione da Gregorio Nazianzeno già parlai a suo tempo una volta a Portogruaro. Solo poche cose per vedere se la traduzione da Gregorio Nazianzeno in un certo senso si inserisce o si armonizza con questi intenti rufiniani nella traduzione da Basilio. Di Gregorio Nazianzeno, la traduzione da Gregorio Nazianzeno è stata effettuata più o meno negli stessi anni, intorno al 399-400, quindi è contemporanea all'altra traduzione, quindi era un momento di particolare interesse di Rufino per l'attività dei Cappadoci. Gregorio Nazianzeno aveva scritto sostanzialmente, insomma sì, ha scritto molto, ma non aveva scritto trattati teologici, ma il meglio della sua attività teologica è manifestata proprio nell'omelia, perché la sua personalità si manifesta soprattutto nella retorica, diciamo, retoricamente, oratoriamente, soprattutto lì è il meglio. E allora, nelle 45 omelie di Gregorio Nazianzeno, Rufino ne traduce 9, così come delle, mi pare, 37, scuse, quelle sull'esamerone di Basilio, Rufino ne ha tradotte 8. Naturalmente sorge il problema, vi accenniamo ma non lo possiamo risolvere, se erano esistite altre omelie sia di Basilio sia di Gregorio, e che fine hanno fatto? Alcuni studiosi se lo sono domandati, ma non possiamo certo dare una risposta. Dobbiamo basarci su quello che abbiamo e su quello che è stato tradotto. Ora, ci si domanda se come è stata fatta questa traduzione da Gregorio Nazianzeno. In sostanza la struttura è uguale, la struttura dell'opera di Rufino. Una prefazione sempre ad Aproniano e poi la traduzione che presenta i suoi problemi. La prefazione ad Aproniano questa volta è diversa, però fa pur sempre, informa Aproniano e i suoi della figura dello scrittore che viene tradotto, cioè di Gregorio di Nazianzo. Informa quindi il circolo di spirituali cristiani di lingua latina chi era questo grande personaggio, che forse molti avranno sentito nominare, ma che magari non erano in grado di leggere nell'originale. E traccia una rapida biografia di Gregorio Di Nazianzo, non del tutto precisa, con alcuni elementi che non corrispondono alla realtà o a quello che noi sappiamo da altre fonti più attendibili. Però la biografia deve servire evidentemente a presentare il personaggio, del quale si danno, come dire, del quale si sottolinea l'attività in perfetta conformità con la fede ortodossa, di cui abbiamo anche già parlato prima. Poi vengono le traduzioni di 9 omelie, e allora bisognerebbe domandarsi a questo punto come mai ha scelto un certo numero di omelie, che cosa rappresentavano appunto agli occhi di Rufino e agli occhi dei suoi, come dire, dei suoi amici lettori, queste omelie di Gregorio Nazianzeno. In effetti di alcune c'è un gruppo di omelie particolarmente significative e altre invece molto meno, e ci potremmo domandare che significato avessero. Forse avevano un generico significato morale, forse non avevano un contenuto particolare. Però alcune sono particolarmente importanti e in sostanza dobbiamo dire che Rufino ha colto alcune delle omelie più importanti di Gregorio Nazianzeno. Innanzitutto la seconda omelia, che è molto lunga e riguarda la funzione e i compiti del perfetto sacerdote, e quindi in un certo senso vuole mostrare come si deve comportare il vero pastore di anime. Questo può rientrare negli interessi di Aproniano e dei suoi, e negli interessi in fondo anche di Rufino. Poi vengono tradotte 3 omelie di carattere teologico, effettivamente, e cioè la 38, la 39 e la 41 di Gregorio. Ora, è interessante osservare che queste 3 sì hanno contenuto teologico. La 38 riguarda il Natale di Cristo, la 39 è la prosecuzione, in sostanza riguarda un po' la struttura della realtà della trinitaria, e la 41 è dedicata allo Spirito Santo. Sono 3 omelie, di cui soprattutto la 38 e la 39 molto importanti e molto belle anche, che insomma è bene leggere, insomma sono di bella lettura, di lettura molto che arricchisce molto. Però è interessante notare allora che le cosiddette orazioni teologiche, vale a dire il numero 28, 29, 30, 31, quelle teologiche in senso stretto invece non sono tradotte. Ci domandiamo, non le ha tradotte perché non le ha trovate, o forse non le ha tradotte perché le trovava troppo tecniche, forse non adatte, cioè rispetto a quelle 38, 39 e 41, quelle sul Natale, sull'Epifania, diciamo così, e quella sullo Spirito Santo, le altre sembravano come in effetti sono, forse troppo tecniche, troppo precise e quindi meno adatte alla divulgazione. Questa potrebbe essere una spiegazione. Del resto le omelie 38, quella sul Natale e sull'Epifania, sono, da un punto di vista così di contenuto morale e spirituale, molto più ricche, appunto, soprattutto insistono sulla incarnazione di Cristo, la storia dell'umanità, il riscatto dell'umanità. Una parte dell'orazione 38, poi passata nella 41, che è dedicata proprio al problema cristologico in Gregorio Nazianzeno. Quindi si può dire che almeno una scelta è stata presente anche c'è stato un criterio anche in questa scelta da Gregorio Nazianzeno. E vorrei accennare solo, perché è fondamentale sempre per il procedimento di Rufino, che anche in questa traduzione vi sono delle modifiche o delle differenziazioni rispetto all'originale greco. E in tempi passati l'ultimo editore nel XEL, nel corpus di Vienna, l'Engelbrecht, aveva osservato alcune di queste discrasie tra l'originale greco e la traduzione latina, e aveva naturalmente concluso, anche in modo frettoloso, che queste differenze erano dovute al fatto che Rufino non aveva capito, perché si usava dire così allora, naturalmente. È possibile che certi punti mostrino una incomprensione. Del resto bisogna tenere presente che un poco questa difficoltà di comprensione del greco un po' nel mondo latino c'è sempre stato. Oltretutto poi noi siamo guidati da criteri scientifici, della valutazione scientifica della lingua, perché abbiamo i nostri lessici, abbiamo magari anche, come dire, altri strumenti di lavoro che per noi ormai sono indispensabili, sono normali. Nel mondo latino, quando traducevano, non avevano questi strumenti, ad ogni modo, e nemmeno pensavano che fossero necessari. Quindi certe cose che noi consideriamo di errata traduzione erano semplicemente una traduzione che non rispondeva a un criterio scientifico come quello che noi pensiamo che si debba eseguire adesso. Oppure in certi altri, quindi se a un certo punto Gregorio di Nazianzo parla della quaterna, della tetractus pitagorica, che è un concetto tipico della filosofia greca e anche della cultura greca, e Rufino a un certo punto magari traduce il termine tetractus in quartus numerus, il numero persa. Sì, verissimilmente Rufino non avrà avuto presente in questo caso che cosa significava questo termine, ma questo direi che può, come dire, sono casi che in fondo si trovano in qualunque traduzione latina, bisogna tenere presente che non dobbiamo dare la croce addosso soltanto a Rufino, perché faceva parte un poco della traduzione in quanto tale. Oppure se in greco abbiamo il termine aesthesis, che vuol dire appunto sensazione, e Rufino traduce a un certo punto con materia, non è precisa la traduzione, indica appunto la cosa materiale, quindi sottoposta alla sensazione, ha fatto un po' uno scambio, uno spostamento di significati, un'imprecisione senza dubbio. Però la traduzione da Gregorio Nazianzeno è una traduzione particolarmente curata, forse ancora più di quella da Basilio, tanto che anche Girolamo, di malavoglia, sempre con il fiele in bocca, dovette ammettere, scrivendo un'apologia contro Rufino, dimmi perché hai usato scriverle alcune cose e hai avuto il coraggio di tradurre con pari splendore di eloquio le opere di un uomo così eloquente come Gregorio. Hai tradotto pari eloquio, splendore, quindi anche Gerolamo è stato costretto ad ammettere che questa è una traduzione di carattere letterario. Perché appunto Rufino, e vorrei concludere qui, nonostante quello che una critica mal informata finora ha spesso detto, ha tradotto con interessi letterari i quali si sono uniti in modo molto armonioso a una sintesi perfettamente riuscita, a certi intenti di carattere pastorale, di carattere spirituale, di cui anche Chiesa ha accennato in tempi molto recenti, che emergono proprio dagli intenti espliciti che Rufino stesso ha indicato. Questi intenti espliciti poi devono essere confermati quando possibile dalle modifiche o da certe novità che una lettura attenta suggerisce, in modo da poter ricostruire per quanto possibile. Ci vorrà ancora tempo per poter dare di Rufino un giudizio più giusto di quanto finora non sia stato presentato. Grazie. Una lezione veramente densa, l'abbiamo seguito con molta attenzione perché si faceva seguire per la materia che è molto, diciamo, viva. Il nostro Moleschini ha parlato, come spesso ha accennato, a Concordia, diciamo Concordia, perché Portogruaro aveva più conforti per il convegno, fu un convegno organizzato da noi dell'Accademia Bessarione e quindi l'abbiamo vissuto questo convegno con molto frutto. E uno dei migliori oratori fu appunto Moleschini. E qui trovo anche l'amico dice il nome ora perché lo confondo sempre, Calvino. Fu un convegno in cui loro ebbe pure magna pars. Certo, il problema di come traduce Rufino è un problema che sarà ancora ripreso, ma ora abbiamo più elementi, come Moreschini ha fatto notare, abbiamo più elementi di giudizio ora, e che anche rispetto alle opere, come quella di Crusello, di Simonetti, di alcuni anni fa, vengono ad essere superate proprio per gli elementi nuovi che sono venuti fuori. Ora, sono d'accordo con Moreschini che Rufino traduce, è preso dalla parte spirituale, più le opere spirituali, e queste sono vive, più parlano in lui. Se noi consideriamo che quella regola tradotta da Basilio è stato un punto di riferimento per tutta poi la storia del monachesimo, non avendo altri riferimenti per le regole, è stata la prima tradotta da Rufino, ma è la regola più, diciamo, che denuncia maggiormente l'animo di Basilio, la spiritualità, direi, di Basilio. Me ne sono occupato io per Fonda Avellana, ma sto notando quanto sia vero questo giudizio, che ha tradotto, ma l'ha tradotto per la spiritualità che aveva. E d'altra parte, diciamo, la comune opinione era quella. Quando Aproniano gli ha detto traduci quest'opera, e lui sapeva che faceva un'opera meravigliosa, un'opera feconda, fertile per tutto il monachesimo. Ed è un punto di capitale importanza, perciò siamo d'accordo che sulla parte spirituale lui insiste, e quella è una parte molto, diciamo così, molto veritiera. E lì si capisce Rufino più di qualunque altro motivo. È quella parte spirituale che lo tiene a vita, così anche per la traduzione che ha fatto sull'Epistola 46. Non dobbiamo dimenticare che Basilio è stato alla scuola di Libani e Gregorio Nazianzeno gli era amico proprio perché avevano preso la quintessenza di quelle che erano, diciamo così, le sostanze della retorica libanese. E Libanio era un moralista che li aveva conquistati. E allora anche l'Epistola non mi meraviglia. L'Epistola 46 che si trova nelle omelie, perché praticamente anche Libanio era di questo parere, cioè la lettera che cos'è? Sono un discorso a persona lontana. E allora, essendo un discorso a persona lontana, e allora era ovvio che la fiction portava a considerare come un'omelia viva, un'omelia che si era tenuta e che si poteva tenere o si poteva sempre adottare. E su questo Basilio si ritrova, è uno dei migliori autori, e anche, come tu l'hai dimostrato, Gregorio Nazianzeno, il più, diciamo, squisito nella sua forma. Ma Basilio è profondo ed è un'anima molto viva e interessata agli altri. Allora, questo amore verso il prossimo che ha Basilio non l'ha magari Gregorio Nazianzeno. Lui fa il pastore, lui è, diciamo così, è vescovo, ma oltre ad essere vescovo, anche l'altro, ha una grandiosità di progetti, come la stessa città che aveva fondato, perché l'aveva fondata, sono tanti motivi. Non è che possiamo esaurirli, ha fatto bene a indicarli, e in questa indicazione di Moreschini noi troviamo la ricchezza dei suoi interessi, e questa ricchezza è molto evidente. Quindi, come abbiamo visto nella traduzione che egli, cioè Moreschini, ha fatto dei 5 discorsi teologici di Gregorio da Nazianzeno non erano stati mai tradotti. Ed è un'operazione molto difficile tradurre i 5 discorsi teologici di Gregorio da Nazianzeno. Forse 8-9 anni fa l'avevo preparato per i testi patristici. Così anche quello sull'antichità. Insomma, è l'amico vero dei cappadoci, l'amico che parla col cuore al cuore degli altri, e quindi ce lo rivela. Ma non staremo, siamo qui il tempo, lui tola, e quindi non arriviamo più. Allora, passiamo alla seconda.